Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Sarò noioso, ma io vi ripeto sempre le stesse informazioni perché sono utili, credetemi. E poi il successo che abbiamo con le mail lo testimonia. Allora, questa volta partiamo proprio dalla mail alla quale indirizzare le vostre segnalazioni. La conoscete? Un abuso al giorno @radio24.it. La seconda informazione riguarda il nostro sito Radio 24. Allora, potete entrarci e scaricare le puntate di qualunque trasmissione, anche o quasi, in tempo reale. Soprattutto trasmissioni come questa, che vanno in onda la mattina presto, possono poi essere tranquillamente riascoltate più tardi e si può anche fare una ricerca per tipologia di argomento. In più potrete, con me e con chi ha il blog sulla radio, interloquire visitando il blog. Il mio si chiama Guardie o Ladri, ormai sapete anche questo. Mi farà piacere se continuerete a visitarlo e a scrivere commenti. Allora, un nostro radioascoltatore di Castiglione Cosentino, quindi ci troviamo in Calabria, in provincia di Cosenza, ci ha mandato una interessantissima lettera che riguarda sì, è vero il nostro radioascoltatore, sì, è vero una regione precipua, la Calabria, ma riguarda in realtà tutti coloro i quali, datori di lavoro, assumono soggetti disoccupati, poi vedremo in base a che cosa. E interessa tutti quanti coloro hanno poi rapporti e intrattengono rapporti con l'INPS, quindi l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ragione per la quale quindi ho preso in considerazione questa lettera, il cui caso ora ci verrà, rappresentato dal titolare Salvatore Bruno Bossio. Buongiorno Bruno Bossio. Buongiorno, buongiorno. Saluto voi e saluto i radioascoltatori e il dottore Crudo. Allora, il dottor Crudo è Antonello Crudo, direttore centrale delle entrate dell'INPS. Buongiorno dottor Crudo. Buongiorno. Bruno Bossio, partiamo con la sua denuncia, perché lei ha fatto una vera e propria denuncia articolata che ha spedito a noi e non soltanto a noi. Prego. Sì, in effetti diciamo che io proprio in ultimo, quando ho visto che non riuscivo ad avere una risposta, avendo iniziato a chiedere risposte, cioè a fare domande per avere una risposta in merito all'interpretazione, non riuscivo a cavare, come suol dirsi, un ragno da buco, dal buco, sabato scorso 6 marzo ho mandato l'email a voi della trasmissione che conosco e che apprezzo, un abuso al giorno toglie il codice d'intorno, e in effetti devo dire che mi faccio i complimenti, siete stati velocissimi. Dico già in anticipo, prima di esporre il problema, che manco a farlo apposta, proprio ieri, siccome si tratta dell'azienda della moglie di un mio fraterno amico, gli è arrivata dall'INPS di Cosenza, diciamo, l'annullamento del provvedimento di reiezione. Guardi, in un certo senso è stata data ragione alla moglie del mio amico, diciamo, alla mia. Allora, purtroppo noi a volte facciamo dei miracoli laici, però Bruno Bossio, illustriamo il caso, perché altrimenti i radioascoltatori non capiscono. Allora, qual era il caso che lei ha denunciato? Io non uso proprio parole tecniche, perché sennò chiaramente... No, diciamolo terra terra. Però terra terra, soprattutto qua per le regioni del sud, noi siamo in Calabria, e c'è questa benedetta legge 407 del 1990, e più in particolare l'articolo 8,9, che diciamo, senza leggere il testo della legge, in parole semplici dice che le aziende che comunque non hanno effettuato licenziamenti per riduzione di personale, una volta era nei 12 mesi precedenti, adesso è nei 6 mesi precedenti, e non hanno quindi proceduto a fare licenziamenti per riduzione di personale, praticamente possono assumere disoccupati cosiddetti di lunga durata, però la legge dice disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, diciamo attualmente sezione circoscrizionale dell'impiego, da almeno 24 mesi. Ok, e che cosa aveva fatto l'azienda di questo suo conoscente? Ecco, della moglie del mio amico. Sì, va bene. In data 28 luglio 2009 aveva assunto proprio un dipendente in base ai benefici di questa legge, che consistono nel fatto di pagare con contributi ridottissimi per 36 mesi, essendo in Calabria, quindi una regione del sud. Certamente. Allora, quindi aveva assunto in data 28 luglio, però l'INPS in data 28 settembre, due mesi esatti dopo, aveva rigettato il questi benefici, dicendo, in parole semplici, vi chiediamo di pagare la contribuzione normale anziché quella ridotta, perché non rispettano i benefici di questa legge, in quanto il dipendente nei due anni precedenti l'assunzione, quindi nei due anni precedenti il 28 luglio, ha superato i limiti di reddito previsti dalla legge per poter... Bene. Allora, un secondo che la interrompo. Allora, io cerco di riassumere in parole volgari e semplici il caso, e chiedo a Crudo di correggere tutta la ricostruzione che io faccio nelle parti in cui sbaglio. Allora, ci troviamo al sud, in Calabria, c'è una legge che, come ci diceva il nostro radioascoltatore, la 407/90, che prevede per le aziende che non hanno licenziato nei sei mesi precedenti, quindi che si sono comportate in maniera virtuosa, di assumere dipendenti disoccupati di lunga durata, ed avere su questi assunzioni disoccupati di lunga durata degli sgravi, dei benefici di legge, quindi dei vantaggi che vanno a favore di imprese che operano in queste regioni del sud. Che cosa accade? Accade che l'INPS di Cosenza, quindi aprite le orecchie cari imprenditori di tutte le regioni del sud, l'INPS di Cosenza aveva detto no, non potete avere quei benefici, non potete avere quei vantaggi. Perché? Perché la norma, evidentemente, chiedo a Crudo, si presta a delle interpretazioni, e quindi questo dà il modo di non avere un'omogeneità di comportamenti sul territorio, ma differenze. Crudo, allora, mi corregga in ciò che ho sbagliato e diciamo qualche parola in più. No, diciamo, la descrizione è abbastanza precisa. L'unica cosa che ci tengo a precisare subito è che non riguarda questa agevolazione solo le regioni del sud. Certamente. È un'agevolazione che riguarda tutta Italia. Ha fatto benissimo a sottolinearlo. In realtà, alcune piccole differenze, ovviamente all'interno di una legge, di una legge quadro di natura nazionale, ci sono proprio sul requisito di inoccupazione, che può cambiare da regione a regione. Certo. Le regioni su questa partita hanno una loro, diciamo, potestà autonoma di definire, in base alle differenti realtà, il concetto di inoccupazione. Quindi tendenzialmente la ricostruzione fatta da lei e dall'ascoltatore è corretta, molto precisa, andava, diciamo, perfezionata solo in questa benissimo parte. E ha fatto benissimo a dirlo. Ecco, ma perché l'INPS di Cosenza? Ma l'INPS di Cosenza aveva diciamo un dubbio di natura interpretativa, perché per essere inoccupati, oltre ad essere iscritti nelle liste di collocamento, insomma, da almeno 24 mesi, è necessario anche non avere redditi superiori a un certo importo. L'INPS di Cosenza, ed è una parte della norma che si presta a una qualche interpretazione, l'INPS di Cosenza aveva considerato, perché il soggetto aveva dei redditi prima di entrare nello stato di disoccupazione e l'indennità stessa di disoccupazione, aveva erroneamente considerato alcuni redditi nel raggiungimento di questo limite. Devo dire che appunto abbiamo chiarito il dubbio interpretativo con l'INPS di Cosenza. In questo senso, diciamo, c'è stato un ritardo, peraltro da questo punto di vista ci tengo a dire che peraltro l'INPS di Cosenza a noi ce l'aveva segnalato, mi assumo le responsabilità, diciamo il disguido sul ritardo è stato proprio su un disguido nella gestione del quesito da parte proprio della direzione centrale, quindi in questo senso, diciamo, la segnalazione dell'ascoltatore ci ha aiutato a risolvere il problema. Peraltro abbiamo anche spiegato, e quindi abbiamo dato le indicazioni in linea proprio con quello che poi è stabilito dalla Regione Calabria per accogliere il provvedimento e dare il codice di autorizzazione che permetterà all'azienda di accedere allo sgravo. Ed infatti il nostro radioascoltatore ha detto che effettivamente è stato poi contattato dall'INPS di Cosenza e quindi si è riallineata l'interpretazione della legge a quelli che sono i canoni prescrivibili per tutta Italia. Io ringrazio Antonello Crudo della sua chiarezza, ringrazio l'INPS per la collaborazione, ovviamente il nostro radioascoltatore Bruno Bossio che ci ha segnalato il caso davvero molto interessante. Quindi ripeto, cari imprenditori di tutta Italia che non avete licenziato negli scorsi mesi e che volete ricorrere all'assunzione di personale disoccupato di lunga durata. Ricordatevi che esiste questa legge, la 407/90, che lo permette. L'interpretazione dell'INPS, qualora fosse difforme dai canoni, può essere sollecitato un quesito all'INPS stesso, che come vedete poi alla fine risolve il caso. Grazie ai nostri ospiti Crudo e Bruno Bossio, in regia a Paolo Corleone, in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.